Dipende moglie, di già la principessa. essa vedo la Roma Zos, quella vedo ma fretta, ricca, passabilmente 14 milioni. Salute! Era tempo il pochio capo sparito. Le donnine, le carte, le bottiglie, i cavalli, niente. Si stava freschi, si stava freschi, che non si assolvi. Al padrone, alla sposa, alla dote, a lui. Silenzio, ricapitano, no. La principessa su sveglia di padrone. Thank you. finalmente. La camera del conte. Vladimiro. Ferito. Principessa, sì. Dottore, una disgrazia, un assassinio, il conte, povera. Povera, con il nome d'Antonio. Eccomi. Il signore Giovanni di Sirie. Ma questo! Ha detto all'ambasciata di Francia. La ringrazio. Dottore farmacista, è subito un prete. Io te ne prego, come si prende io, salvo la mia, salvo la sua vita. Cara dottor, venite. Lasciate che mi sento. Slitta. Parla, parla, parla. Egli mi disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio sono e spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse in nato spinto cancello, corre a sindacco, per avvisarlo non seppi. E poi, quel buon correndo, avea lasciato sul

a quell'uomo vedesti sì. Il suo nome? Non lo mento. Vicino provo, sforzati, cerca! Cerca! Cerca! Non trovo! Cerca! Mi aiutasse! Sciocco! E soffrire la vita di un giorno, forse! È giorno di Natale, loro sulla soglia, proloco con calunno! Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. La rivedo. Dunque. Morto. Uccidito! Divino diletto mio. Thank you. Teresa se aveste ordini per la Russia. Partite! A mezzanotte! E domani! Poi verremo allora! Entro bordo! Addio! Addio! Rispondi, verrai. Principessa, un dispaccio ufficiale vi consiglio di sospendere la festa. Un attentato! Contruzzo! Leggete!

sarò nella mia casa a implorare il suo perdono. Thank you. lettere dirette a mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Incendio!

cancello di noi. Sì. Quella tremenda nuova, la vecchia lor madre inferma. Morta. Di colpo. Anche la madre. Sua madre. Deliziosa! Grazie, non mi sfido a raggiungermi! Siete così leggera! Volete tra i chilometri di vantaggio! E la costa! Di Morante a Parigi, segnò col nome di battesimo.

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. Io mi domando ancora. come? Se tu mentissi! Chi mi dubiti ancora? Chi mi dà la certezza? Lui stesso! Vladimiro! Ecco la prova! Leggi! Anima mia! La sua scrittura! Penetro armato. Deserta è la prima stanzetta. Vi ascolto. Un'onda divisa, un'onda di baci. Io afferro e l'atterro, lascia quella donna, grida il fine, mi rivoglio furibondo, al vedermi armato in sarma, spara, al fanco mi ferisce, io rispondo, ma Lucia. Thank you. 喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽。